nessuno nascosto. Io ci sono. Voi? C'è qualcuno qua? Ciao Gianni. Ciao Carlo. E allora? Alle ore tarde. Era a portare il cane adesso. Ho voluto scendere prima oggi perché oggi l'ho portato presto. E quindi ho voluto scendere prima. Bene, bene. Non sta piovendo, no? Io sono a casa oggi, neanche uscito sono stasera. Noi diciamo mudinendi, cioè gocciolando. Ah, ecco, ecco. Infatti mi era sembrato, siccome sono a casa in... a riposo diciamo, e quindi ho detto no, stasera non ho voglia di uscire e quindi sono di diciamo di relax, capito, però poco fa da sbirciato mi sembrava un po' la strada umida, ho detto ieri ha dato una bella passata E io sono tutto il giorno fuori casa, prima sono andato presto a prendermi le buste, ho detto che si liberare tutto e poi non ne trovo. E ci sono anche quelle per via Provincetta, se ti può interessare, sono lì dove c'è la chiesa del Buon Pastore, di fronte al coso, all'autoparco là. Sì, anche qua le vanno tutto, i cassonetti eccetera, e infatti ci è arrivata anche la lettera che appunto ci dice quel posto lì per andare a tirare le buste o boh, non so, martelli, questa roba qua. Allora se voi siete meno di, allora se siete 10 sino a 10 ti danno quei martelli piccoli, invece se sei superi 10 ti danno quelli grandi, quelli più grandi, capito? E te li consegnano quelli piccoli, te li consegnano direttamente lì. Già, faccio un attimino solo di bianco che mi spengo la musica, che avevo la musica accesa in cucina. Arrivo subito. E io. Chi è là? Eccomi tornato. Ti stavo dicendo, è stata una giornata movimentata, poi sono andato stamattina dal gommista perché ho preso la macchina, c'era la gomma tutta sgonfia, l'ho dovuta cambiare. Guarda, quei bulloni stretti a morte, ho dovuto prendere un tubo per mollare i bulloni. E all'anima della stretta, forse te l'avevano chiusa con quella specie di trapana d'aria compressa e quindi quelli chiudono forte. No, con quella chiave particolare li hanno chiusa perché sono andati via degli astronauti dove erano la chiave di grandinavometrica, quella chiave lì. Però erano stretti a morte, io ho la chiave a croce, ho quella a croce, quella grande. E praticamente ho dovuto entrare in un tubo e dargli i colpi col piede, sino a quando si è smollato. Ho capito. Quello che mi stavi dicendo, ti danno solo le buste e i martelli piccoli, così ho capito bene già. Sì, se non siete più di 10 ve li consegnano lì, ci sono dei gazebo proprio dove c'è la chiesa del Buon Pastore, lì, nella loro spiazza della chiesa, ci sono dei gazebo che consegnano la roba. E a quelli che sono sino a 10, a 10 inquilini, 10 famiglie, praticamente li consegnano loro. Dopo i 10 invece sono quelli un po' più grandi, capito, dentro i cortili. Ho capito, solo che noi il cortile non ne abbiamo, abbiamo noi la discesa per i garage e poi abbiamo un androne aperto, capito, interno, però non mi sembra il caso di mettere lì martelli perché in bella vita così non è che va tanto bene, capito? Comunque, adesso che me l'hai ricordato, domani ci faccio un salto, domani mattina. E io, tanto li stanno consegnando qua. C'era scritto via Pronizzetta e Monte Rosello, nel cartello. Sì, io sono all'inizio di via Pronizzetta, così a me insomma, sono attrezzato quando leveranno i cassonetti. Per voi è una rottura di scatole, perché devi andare a ritirare, il vento te li porta via, insomma. Io ho partecipato alla riunione l'altro giorno, l'hanno fatta in Piazza d'Italia, nel senso la piazzetta, no, quella che si chiama Piazza d'Italia, e praticamente hanno fatto una riunione con i consiglieri comunali, gli assessori, e hanno detto queste cose. C'è stata gente che gli ha fatto delle domande, perplessità, tutte queste cose qua, e loro vedremo di provvedere dove sono in discesa. Abbiamo visto per dire via Gorizia è tutto in discesa, come si farà? Vediamo un po', cercheremo una soluzione. Sì, non so che soluzione trovano, anche qua è, insomma, un po' di discesa c'è, però via Pizzetta parte da qua, è salita, quindi io non lo so. Il nostro condominio è piccolo, ci sono in tutto 5 famiglie, capito? Non è molto grande questo dove abito io, capito? E allora vi danno quelli piccoli, te li consegnano direttamente. Ti consegnano quello dell'umido, quello del differenziato e quello del vetro. Il cartone ti devi arrangiare, devi prenderti i cartoni dai negozi, andare a chiedere e metterci il cartone dentro. Beh, insomma, adesso vediamo, ci abitueremo. Io mi auguro che, insomma, che non sia troppo complicato. Va bene che io adesso sono da solo, per cui già non ho padroni che mi comandano, per cui vedrò un po'. Ci daranno anche l'elenco delle giornate, no? L'orario, il lunedì ritiriamo una cosa, martedì quella, perché io non so niente di queste cose. Sì, ti darò il calendario insieme a Mastelli, ti darò il calendario dove ci sono scritti tutti i giorni che ritirano la roba. Ah, è meglio, e infatti grazie che me l'hai ricordato, già mi hai detto questa roba, perché l'avevo messa via la lettera, c'era scritto, però capito, una volta che la messi via potresti di testa, non per altro, perché poi magari ci saranno le scadenze e magari rischio poi di non trovare niente. Domattina, domani sera lavoro, però domattina sono libero, quindi devo uscire a fare un po' di spesa e passo lì, capito, e mi ritiro questa roba. Sì, tutto te la danno, devi avere la tessera sanitaria appresso. E quella ce l'ho sempre appresso, tanto nel portafoglio, faccio il tutto documenti, la tessera sanitaria ho tutto là. Sì, anche io così. E nulla, poi sono andato dal gommista, ti stavo dicendo, mi ha detto che quella gomma era da cambiare perché perdeva, perché era praticamente crepata all'interno e non si poteva fare nulla. E gli ho detto, ma una sola ce l'ha, adesso vediamo. Ha guardato e ha detto, no, uguale non ce l'ho, ce l'ho diversa, della stessa misura, però è diversa come marca, e quindi se ti fermano o se vuoi fare la revisione non passi, le devi cambiare tutti e due. Cazzo, appena cambiate quelle gomme, ma te le immagini. E allora una me l'ho tenuta, è quella nuova, e l'altra, quella era da buttare, l'ho lasciata a loro, e mi ha fatto cambiare tutte e due le gomme, 200 euro, Maledizione, costano. E io lo stesso, adesso tra un po', io da poco, forse te l'avevo anche detto, avevo fatto i treni, i dischi e le partiglie, e adesso mi sta già segnalando la macchina, manutenzione, la messa a punto, da, c'ho ancora 1500 km, perché mi esce nel computerino di bordo, diciamo, la fine chilometri, dai, dopodiché dovrei cambiare olio, filtro olio, aria, tutte quelle cose che ci vogliono, saranno altre 250 euro. A me me lo scrive, mi scrive, mancano 10 giorni per fare, come si chiama, il tagliando, poi mancano 9 giorni, dopo, sino ad arrivare ce ne manca un giorno, e poi fare il tagliando, e c'è la chiave disegnata. Sì, anche da me è così, c'è la macchina, la freccia e la chiave di diciamo che segnala l'officina, no? E poi c'è 1500, poi come percorri dopo due giorni guardi ed è 1300, capito, e scende, poi si azzera e si rimane solo accesa la spia. A me questi giorni mi conta, mancano per dire 10 giorni, 9 giorni, 8 giorni, ogni giorno ti segna il giorno che manca, sino a quando arriva il giorno che tu la devi portare, dai. Adesso sono tutte così elettroniche le macchine, mamma mia, anzi la Dacia non è molto, non penso che sia molto elettronica, vero? No, no, già c'ha tutto la mia c'ha la radio, il navigatore, capito, il computerino di bordo, e, diciamo, e, ci sono evoluti anche con la Dacia, e, anzi la mia è di 9 anni fa, capito, e, quelle che stanno facendo adesso sono ancora più complete, addirittura hanno lo stereo di bordo con navigatore, con AM, FM, radio DAB e tutto. Il mio invece è solo AM, FM, il DAB è predisposto, però ci vuole un modulo e ti conviene comprarti lo stereo nuovo, perché se comprarti il modulo costa 300 euro, poi lo devi togliere, lo devi attaccare dietro alla radio, un casino, alla fine ho detto ma io sono scemo, non compro niente, mi tengo la radio in FM, tanto finché trasmetto in FM, me la tengo così. Ma infatti è un sistema nuovo, è come per il televisore la stessa cosa, è un sistema nuovo dove si sente meglio. No, io ce l'ho il DAB, ce l'ho dalla casa, ti scrive il titolo della canzone, scorre, ti scrive chi c'è di DJ, eccetera eccetera, tu ogni canzone che metto ti scorre il titolo. Sì, anche da me già fa così la radio, capito, però il segnale DAB è come la TV, è un segnale digitale, capito, che a Sassari si prende bene, ma già se vai ad Alghero non lo senti tanto bene, in alcune zone si è coperto il sistema, diciamo ci vorranno ancora diversi anni prima che poi sia completo come la M o l'FM, anzi l'FM, perché la M chi lo ascolta più non l'ascolta più nessuno, poveri anziani e basta si ascoltano le partite, le cose, vabbè. E io pensavo che invece la Dacia fosse un po' a vecchia maniera, dai, che non fosse tanto tecnologica come macchina, mi è piaciuta quella nuova, è venuto un amico, l'ha presa a noleggio perché lui lavora fuori, è venuto qua a Sassari perché lui è di Sassari, no? E ne ha preso, per non portarsi la macchina appresso, ha preferito prendere a noleggio, ha risparmiato invece che pagarsi la rata, e ha preso questa Dacia, nuovo tipo, ma silenziosa, una bella macchina veramente. Sì, anche una persona che conosco io l'ha presa, dice, il cavolo è migliorata molto, eccetera, rispetto alla tua, è completamente diversa all'interno, eccetera, lo so, infatti sono le macchine più vendute perché costano un po' meno, i motori sono Renault, sono uguali a quelli della Renault, il mio è 1500 turbo diesel, capito, ed è quello che monta anche, che ne so, la Renault, la Megane, 1500 turbo diesel, capito, la Clio, e sono tutti identici quei motori lì. Poi ovviamente l'altra la fanno in Romania, la carrozzeria dell'Aglio, ma già è buono comunque. Io ho sentito dire che la fanno da pezzi riciclati, ma è vero? Ma non lo so, questo non te lo so dire, però diciamo le macchine, diciamo chi le ha acquistate non se ne è pentito perché vanno bene. Io la uso quasi da 10 anni e non mi ha creato mai problemi, ho sempre fatto le cose che andavano fatte, insomma, e ha funzionato bene, mai nessun problema, non si è rotto niente. Prima ho usato per esempio la Opel turbo diesel, la Opel mi ha creato tanti di quei problemi che alla fine non ne ho più. Ma quale c'avevi? Quella col motore General Motors oppure quella col motore Isuzu? Non so, penso che quella che avevo io avesse il motore, quello della Fiat, capito? di 20 anni fa che l'ho mollata la Hoppe. Invece io della Hoppe sono stato molto soddisfatto, però la mia aveva il motore General Motors, ma ha fatto 350.000 km, l'ho venduta e sta ancora girando. L'ho fatto l'impianto a gas, era un bombo quella macchina, non mi ha mai dato un problema. L'unica cosa che l'ho cambiato è la valvola, come cavolo si chiama, vabbè, l'ho pagato 80 euro comunque, quella della marmitta. Ma stai dicendo il particolato, il filtro? Esatto, 80 euro l'ho pagato, perché non mi accelerava, un periodo non mi accelerava, l'ho portato al meccanico, e tu qua o cambiamo il pezzo oppure bisogna svuotare la marmitta, che poi non ti passa in revisione, vabbè, lascia perdere, metti il pezzo che devi mettere, pago quello che c'è da pagare e via. Sì, sì, sicuramente è quello, perché il sistema che hanno adesso le macchine con la centralina ti manda subito in blocco la macchina, capito? E sono anche costosi quei filtri lì da sostituire. Ho chiamato il carrozzio per portarla via, perché non accelerava più. Lo so, si rallenta la cosa, la velocità si ferma, va piano piano. Non tirava più la macchina, ho cambiato quel pezzo, risolto il problema, non ho più avuto problemi di nessun tipo. Le macchine ogni tanto qualche problema lo danno, chi più chi meno, capito? A volte anche a fortuna, però diciamo che sono anche una spesa continua, va bene che tipo io la uso per lavorare, con la macchina come farei, capito? Quindi alla fine sono quelle cose essenziali che ci servono. Il gasolio, visto che sta aumentando un bel po' adesso, è arrivato quasi al costo della benzina. Sì. No, io vado a gas e non me ne sono pentito. Metto 23 euro, metto il pieno. Cioè, 23 massimo 25 euro. Se c'è qualche lineetta di gas ancora, pago 20-23 euro c'ho il pieno. Così già, sì, io non l'ho mai usato il gas, non che sono diffidente, però non le ho mai prese perché diciamo pensavo che il diesel rimanesse basso quando ho iniziato io con le macchine diesel, costava meno di un euro, capito, un litro di gasolio, poi ho iniziato a superare l'euro, 1,20 euro, 1,30 euro, adesso è arrivata a 1,70 quasi. Il gas, sai cosa c'è di bello? Che ogni tanto aumenta, poi riscende, capito? Riscende di nuovo. Sì. Stasera già, per cambiare discorso, non è stato nessuno. No, io ho fatto la chiamata, come sono arrivato a casa, ero col cane, te l'ho detto. Come sono arrivato a casa, ho fatto la chiamata e mi ha risposto tutti. No, non ho sentito nessuno. No, io lo stesso, ero attaccato prima, ma una mezz'ora prima che rispondessi a te, però non è entrato nessuno. Avevo sentito un fischio lontano, però non ho neanche risposto, perché ho detto, questo sta fischiando, se ha voglia di parlare, chiama, fa la chiamata, se c'è qualcuno che risponde. Ce ne sono tanti che mettono la portante, che fischiano, poi dice avanti e non entrano, cioè, è come per farti innervosire, capito? Io già non mi innervosisco, se qualcuno che ha voglia di parlare bene, se no pazienza, ascolto e me la faccio lo stesso. Vabbè, certamente che sì. Ci accontentiamo. Ogni tanto si entra. Stiamo aspettando che tu metta l'antenna. Sì, adesso va bene che inizia anche un po' l'inverno. Cavolo, ieri addirittura il vento, come ha fatto quel temporale, avevo uno di quei bauli di plastica in terrazza, no, dove dentro avevo conservato alcune cose. Mi ha scoperchiato il tacco, capito? E da una parte me l'ha stracciato, va bene che è in plastica, capito? Adesso me l'ha rotto. Poi ho preso, ho rimesso il tappo sopra, ci ho messo il vasetto sopra pesante, così non lo solleva più. Però quell'attimo che ha fatto quella passata d'acqua con i spugni, si è alzato anche il vento forte, ha fatto qualche dannuccio così. Io ero in giro quando è successo quella roba lì, stava piovendo e c'erano temporali, lampi. E stavamo salendo dalla Budi Budi per andare in via Pirandello dove c'era quella rotatura. Allora, abbiamo girato, ci abbiamo trovato un ramo d'albero in mezzo alla strada e ci siamo dovuti fermare per toglierlo perché non faceva passare. Sì. Vabbè, io adesso inizia, dalla prossima settimana dice che dovrebbero abbassarsi anche le temperature, capito? Inizierà un po' il freddo. E bisogna che mi decida a mettere l'acqua nei termosifoni perché fra poco li attaccano e se no respiriamo male. Io non ho i radiatori a casa, si scalda il pavimento da me, c'ho il riscaldamento a pavimento, capito? Ah, bene. Anche la chiesa del Buon Pastore ce l'ha così, la nuova però, quella che c'è di fronte a casa mia, c'è il pavimento riscaldato. Sì, è perché adesso fanno così, oggi di mettere, praticamente prima di fare il mazzetto mettono la serpentina, capito, in tutte le stanze e non mettono i radiatori sulle pareti e magari ti eviti un po' la polvere e di mettere, come hai detto, sull'acqua. Ma non spacca i mattoni il calore, boh. No, io in questa casa ci sono da un anno, l'anno scorso, l'inverno scorso l'ho attaccato, capito, e no, infatti anche io toccavo, riscalda, ma capito, scalda anche bene perché è uniforme, capito, e, però non è che scalda forte come un metallo, per cui non... diciamo non li spacca manco niente, non sarebbe stato già spaccato da un bel po'. Vabbè, una domanda che mi sono messo io in questo momento, ho pensato che il calore magari potesse formare delle crepe, delle cose, ma saranno fatti con ingegno sicuramente, ma sono indipendenti uno dall'altro? No, ognuno ha il suo, capito? Abbiamo tutti la caldaia a gas e l'indipendente, quindi io me lo attacco quando voglio. Infatti ho il temporizzatore, me lo devo far cambiare, metto di quelli digitali, capito? In maniera tale che così posso anche fare partire l'impianto, capito? Quando io a casa non ci sono, per esempio sono al lavoro, un'ora prima di rientrare con l'applicazione tiro il comando, si accende, capito? E ritorno a casa che trovo l'attaccamento già a caldo. Ah beh, la tecnologia. Sì, ci sono quelli dell'Aticino che sono ottimi, si collegano ad internet, ci deve essere la connessione sempre, capito? E quindi tramite telefono tu riesci a far partire l'impianto. Io avevo un amico che l'hanno fatto tre volte, l'hanno aperto la casa, c'era la casa a Portocervo, e praticamente un giorno eravamo a cena e si è controllato dal telefono, gli ha fatto vedere tutta la casa, tutti gli angoli, tutti i lati, dentro, fuori, e vede tutta la casa, capito? Perché non ho già aperto tre volte. Sì, accidenti. Vabbè, quello è sfortuna. E vabbè, questa è una persona conosciuta a Sassari, capito? Molto conosciuta. E praticamente c'ha anche un'imbarcazione grossa, eccetera. Però si attaccano sempre alla villa. Purtroppo, quando sanno che magari c'è una persona che ha quattrini oppure c'ha la villa e quindi di conseguenza i quattrini, là, già lo sai come sono, non approfittano. Purtroppo. non lo fanno manco a mettere roba su internet, e quando si va nei posti non bisogna mai mettere nulla, perché ho letto il sito della polizia che dice praticamente che i ladri si avvalgono di queste cose. Tu magari stai mettendo in diretta una diretta che c'è un concerto, tu c'è il concerto, i ladri sanno che non sei in casa, vanno e rubano, capito? Oppure se vai a farti le ferie, dice vado in vacanza, domani parto, e loro sono sicuri che non c'è nessuno, capito? Sì, lo immagino, capito, perché io già social non ne ho, ho quello di buono, non condivido niente, capito, quando vado in un posto, mi godo il posto, faccio le fotografie per me, e se tu qualche foto la devi inviare, la invio con WhatsApp, ti voglio io, capito, basta. Ecco. Vabbè. No, anche io non è che ne vivo, qualche cazzata col cane, qualche cosa così, il cane posso mettere, ma roba privata non ne metto. Fai bene. Io spesso non ho, come si chiama, Facebook, Instagram, queste cose qua, mai avute e non ne avrò mai, capito, a me non me ne frega niente. No, io ce li ho tutti e tre, per me è un passatempo, dico la verità, mi guardo i filmati, di animali specialmente, di gente che ha la fattoria, fa vedere tutti gli animali che ha, mi piacciono queste cose, la natura. Sì, ma anche su, io uso YouTube per quello, mi cerco, che ne so, filmati lì, oppure mi cerco anche tutorial, se per esempio devo aggiustare qualcosa, capito? E spesso trovo anche cose utili, solo YouTube, capito? Io c'ho YouTube, c'ho Instagram, c'ho Facebook, dopo tutto WhatsApp, c'ho tutto. Però basta praticamente, bisogna magari averli sì, ma diciamo moderatamente li usi, dai. Sì, no, ma io non mi sono preso mai quella briga, e quindi adesso, sai, a un certo punto non te ne frega più tanto di stare lì a condividere niente, o andare a vedere chi c'è, amicizie, non... Io non ho... Diciamo che ne ho poche di amicizie anche a casa, che faccio parenti e qualche amico, capito? Quindi c'è gente che invece va, faccio tante amicizie, c'ho più di 700 persone là che mettono like, che insomma, come può fare a questo così? No, non fa mai questa roba. C'è anche gente che dice è un amico e poi magari un conoscente, io faccio distinzione tra conoscenza e amicizia. L'amicizia è una cosa diversa. Sì. Molte volte dice che siamo amici, questo e quell'altro, e poi non conosce due giorni la persona. Vabbè. Comunque ci sono cose divertenti da vedere, ognuno poi la pensa a modo suo, e non è che io rispetto le idee di tutti. Però ci sono cose anche belline da vedere, per dire c'è questo ragazzo che si veste come lo sceriffo, c'è il cappello da cowboy, eccetera, e ha praticamente una fattoria, e la mattina da mangiare c'ha anche i lama, oltre ad avere i cavalli, le pecore, le capre, e mi dà da mangiare, mentre mi dà da mangiare fa il filmato, capito? Fa vedere tutto, fa vedere i figli degli agnelli, fa vedere i figli dei maiali, eccetera, come nascono, molte volte i parti ha ripreso, e sono cose belle, naturali. Già è bello, anche a me già piace la natura, e quindi anche io ogni tanto guardo, io se c'è una cosa che faccio guardo la TV, non tantissimo, un po' di partite, mi vedo, e poi qualche serie, così, capito, ma soprattutto mi guardo documentari, mi rilascio, capito, e poi con la mente magari fantastica, io pensi, immagini che potete andarci io lì a vedere qua eccetera, fare così o fare colà, diciamo che ci sono cose interessanti TV se ce le sai cercare. Sì, anche io riguardo che dopo 20 anni cambi. Mi guardo anch'io, piace anche a me, non guardo più i film perché quando guardo i film mi addormento sul divano, non capisco perché, non riesco più a seguirli. Mi guardo i programmi come La Rotta alla Fortuna, Così che vale, se adesso farò la corrida mi faccio 4 risate, mi pare che sia oggi la corrida su Canale 9. E quindi io in passato li guardavo, poi un po' ho perso l'abitudine con quelle trasmissioni e qualche volta io sono per film, se ci sono film di prima visione, altrimenti me li scarico, capito, o qualche collega me le mette in chiavetta e mi guardo così, inserisco la chiavetta sulla TV e questo lo vedo da lì. Tu non ce l'hai Netflix? No, in passato ce li avevo con gli abbonamenti, ma adesso è un casino perché io seguivo il calcio, la Serie A, la Champions, eccetera, però se vuoi vedere la Champions devi avere l'abbonamento con Sky, l'abbonamento con DAZN e poi ci sono alcune partite della Champions che addirittura lo dà Prime Video. Devo avere l'abbonamento con Amazon, capito, Prime, e quindi a quel punto te le puoi vedere. Quindi sono 4 abbonamenti che ti devi fare, devi fare Sky, Netflix. Alla fine ho detto, ma io sono scelto, ho preso e ho chiuso tutto e non ne ho più fatto. Adesso mi guardo i canali liberi, quando voglio vedere qualcosa che mi interessa, qualche film, chiedo a qualche collega che scarica gratuitamente, non so come faccia, e me li faccio passare così, altrimenti già se ne va a vedere, anche se ci sono pubblicità su alcuni canali, capito, quindi qualche film ogni tanto lo vedo. Ma già ci sono i metodi per vederlo senza fare abbonamento, c'è chi lo fa ma è una cosa fuori legge, è come se si sia rubato i soldi a chi fa gli abbonamenti. L'hanno anche spiegato come si fa su TikTok, come si faceva. Io, vabbè, l'ho guardato, ma non è che mi interessa bene il televisore più di tanto. Io guardo i telegiornali, guardo questi programmi che fanno ridere, ma i film non riesco più a seguirli, boh, mi drogo, non capisco perché, mi congelava solo. Evidentemente. Capito, si deve guardare film molto dinamici allora, che si tengano sveglio. Mi devono attirare in qualche maniera, magari sono dei film che sono noiosi e prima già ne guardavo di film, c'avevo un abbonamento al Club del Video, figurati, cioè, ne prendevo 3 ogni mese, almeno 3 ne dovevi prendere per avere l'abbonamento. Prendevo 3 film ogni mese, però ti rimangono a te, non sono in prestito, sono quelli che ti rimangono a te. Io avevo tutta la collezione di Dario Argento in cassetta, però io ho buttato via il videoregistratore, cioè un videoregistratore e DVD, tutto in un apparecchio. Lo avevo solo la televisione dove si poteva mettere la presa scarta, adesso ho presa scarta, non esistono più, quindi ho pensato che non si potesse più attaccare, ce l'ho buttato via che funzionava benissimo, e invece poi mi hanno spiegato che c'era un cavo che faceva da praticamente si poteva collegare col videoregistratore. Sì, esatto, sì, se tu avevi il videoregistratore praticamente c'è il convertitore, la SCART, come si chiama la presa che hanno adesso i televisori, la presa SCART non ne hanno più, però c'è il convertitore da picco. Adesso c'è anche uscita per HDMI, per cui tu inserisci un cavo HDMI e poi ha uscita scarica, capito? Lì ci colleghi, capito, quello che vuoi. Ho capito, vabbè. Che se l'ho buttato via, era nuovo, funzionava bene. Era Sony, o Panasonico, o solo Panasonico, adesso non mi ricordo. Comunque l'ho buttato via che era nuovo, funzionava bene. Siccome mi si è rotto il televisore, ho detto, ah, ci ho buttato via tutto, ci ho buttato un lato del color, tutto ci ho buttato. E io lo stesso, io avevo un lettore di tutista, nuovo, quel cazzo che funzionava ancora, tipo che era nuovo, perché l'ho usato 10 anni, poi non lo usavo più e niente, e da poco quando mi ero trasferito da qua, avevo praticamente un borsone pieno zeppo di film di tutti, ma non è guanto, cazzo, ma poi quello ho ripunto lui della qualcuno, perché tanto non lo uso. Io c'ho il Blu-ray, il televisore che c'ho in sala va in 3D. Sì. E invece nell'altra casa dove ero prima mio figlio aveva la PlayStation e lo stesso, molti film in Blu-ray si leggeva, capito, con la PlayStation, ma intanto ce l'aveva collegata alla TV, di prendere un altro DVD o Blu-ray, capito, li prendevi, c'erano i negozi, andavano per la tesserina con la macchina automatica e te li portavi a casa, che fosse un DVD o Blu-ray, con la PlayStation leggevi tutto, ti guardavi il film. Io avevo un amico che li prendeva in affitto e ce li sdoppiava e praticamente c'aveva il film, ogni volta che lo prendeva in affitto c'aveva il film e aveva visto. Sì. Ma adesso mi sa che quei negozi l'erano in sinistra, ormai abbonamenti, Netflix, Stagione, capito, se vuoi dove le film c'è Paramount, Disney, Plus, capito, le prime ci sono i abbonamenti, capito, invece dovevano darli, capito, e dovevano una sola, diciamo, emittente che costava, no? Che doveva fare qualche contaccio, capito? Comunque Sky faceva il salto Serie A, la Zon faceva la Champions o le altre competizioni, e così uno si faceva l'abbonamento che doveva solo la Serie A, invece no, in distanza. E poi c'era uno, c'è l'altro, capito, era un casino, una giungla che contatto ormai. Mi sa che c'è molta concorrenza anche lì. Ma stanno limitando un po' tutto, anche per dire i volantini che mandavano a casa, adesso ci sono i volantini su internet e praticamente hanno limitato anche questi volantini che mandano a casa, prima c'era sempre il coso pieno zeppo, il coso della lettera che ci abbiamo fuori. Dove c'è la pubblicità, che è sempre piena, adesso ogni tanto se ne vede qualcuno, ma proprio di rado. Sì. Vediamo se c'è qua, no, di spalle se vuole. Siamo sul canale 1027075, avanti se c'è qualcuno. Oggi, allora, lunedì la gente è impegnata dopo sabato e domenica, e quindi non sa che non c'è nessuno. Dai, Eddie, ma la legge di buco, mi piace ascoltare, ma non entrare. Va bene che anche ora di cena, quindi qualcuno magari ha accesso, ma magari sta preparando, sta ascoltando. Anche a me ha accesso, poi mi metto a fare qualcosa, a volte il tempo, tipo dopo come mi dicono qua, la chiacchierata, poi magari a quando finisco hanno chiuso tutti e quindi niente, allora desisto, capito? Però quando ogni tanto quando ho accesso, così al computer, se qualcuno chiama, quello che posso fare, qualche tempo. Solitamente dopo le 8 vanno in FM, capito? Vanno in FM, c'è una grefetta che va lì, però non so se stia ancora, se sia ancora in funzione questa cosa, prima lo facevano, sul canale 20 mi pare che andava. E c'erano 3 o 4 persone che andavano. E io cosa sento? A volte metto in scansione, capito? Ma sento qualcosa che ci sono in scansione, che entra una mattina o tipo, e sento io non lo sento, quindi almeno non lo sento più bene. No, sono anche loro che non hanno antenne performanti, usare antennini, capito? Per parlarci uno con l'altro lì e basta. Se non mettono antenne buone, l'unico che c'è l'antenna ad Alghero come si deve è Angelino, che se l'ha messa sul palo dell'Enel, quella sì che è una figata. Sì, no, qualcuno ho visto che ha messo le antenne anche buone, perché c'è Alessandro Uda, che è un mio collega anche dell'amatore, che si è messo l'antenna anche per la resistenza, gli altri che loro già entrano, ogni tanto qualche prova, e qualche secco, l'inverno, marzo, qualche antenna l'ho vista anche buona, gira di là. Comunque, a Zampa che siamo sempre sotto, perché non è entrato nessuno di nuovo. E ogni tanto già entra qualcuno, quello di Sosa è entrato, qualcuno già entra ogni tanto, poi sparisce, poi rientra, non è, sono costanti, capito? Quello. No, Mangelino se l'ha messa sul palo dell'Enel, un palo dell'Enel l'ha abbandonato, praticamente non passano più i fili, i cavi. E si è arrampicato, l'ha messa lì l'antenna, e parte da terra e poi sale su. E quello è un palo che non butta manco se viene una tempesta. Sì, già lo credo, se è palo grosso così e chi lo butta giù. Cioè, e fa anche bene, massa terra il palo, se mando un vecchio palo dell'Enel, l'ho capito, sembra strano che non l'abbiamo tolto. Ma perché risulta nella sua proprietà, è un palo che passava nella sua proprietà, capito? È nello spiazzo proprio dove c'è la casa. Ah, ho capito, allora questa è una proprietà privata. Non lo tolgono più adesso perché loro non possono mantenere l'inte proprietà privata e quindi a lui ha fatto comodo tenerlo, ci ha attaccato l'antenna e non ha bisogno di altro. Lui è proprio lì a Fertina dove c'è l'aeroporto, è proprio lì di fronte. Sì. E magari sono proprietà private. Lì ci sono tutte le case della riforma agraria, capito, chi che hanno la casa, il terreno, capito, più probabilmente più la privata. Però non l'ho più sentito Angelino, prima lo sentivo spesso, veniva anche a Sassari, qualche volta è venuto a casa a mangiarci la pizza insieme. E poi non l'ho più sentito, si è sposato, adesso c'è una figlia e un figlio, non lo so se è maschio o femmina, e adesso praticamente è impegnato e non passa più. Magari la gente cambia, capito, con i figli della famiglia qualcuno molla, capito, e non entra più. Andavamo anche a pescare insieme, siamo andati insieme qualche volta a pescare. E allora già lo conoscevi anche bene, ma adesso non sta pensando lui, no? Ma mi pare che l'ho sentito una volta e poi non l'ho più sentito. Sì, una volta l'ho sentito e poi non l'ho più sentito, non ti parlo manco di molto tempo fa. Comunque, prima Alghero c'era molta gente a Porto Torres, Madesi, tutta quella zona, tutti, io li sentivo di notte, stavamo fino alle 7 di mattina. Guarda che prima eravamo drogati. Perché prima era una cosa che ci faceva insomma viaggiare un po' lontano e parlare con persone un po' lontane. Poi con l'era dei telefonini, diciamo, è un po' andata in decadimento la radio, capito, la 27, e ormai tutto ormai con WhatsApp, messaggi, video e qualsiasi cosa, è andata un po' di giusto, capito? È un peccato perché ti facevi quattro chiacchiere così, capito? Invece quando le persone sono poche alla fine non tutti entrano assieme e ci sono giorni che proprio non c'è nessuno. Ma sai che anche su Star Maker, che è un'applicazione dove si canta la sera, si fa salotto, ci sono le poltrone finte, tu c'è scritto prendi posto numero 1, numero 2, tu clicchi e ti siedi e parli con la gente, capito? Come se fossero con te proprio in diretta, dai. Ho capito. Ma insomma io non ho questa pazienza da stare via. La radio è una cosa più seria, capito? Accendi, schiacci il microfono, fai se c'è qualcuno, se non c'è nessuno pazienza, capito? Fai altro. Però quando c'è qualcuno fa sempre bene fare quattro chiacchiere, si parla di più per meno, capito? Qualche consiglio tecnico, qualche consiglio di tante cose, di esperienza di vita, e quella è stata la cosa migliore, capito? Allora su Facebook adesso c'è questo CB che praticamente fa i DX, c'è cioè l'antenna direttiva e fa i DX in diretta, fa le chiamate in inglese, è molto bravo parlando l'inglese, si sentono le chiamate in diretta, c'ha tutti apparecchi tipo, cosa ti posso dire, tutti valvolari sono, capito? Tutti apparecchi valvolari di vecchia era, ma si sente con una precisione, una nitidezza, guarda, allucinante. C'ha il Tenco, c'ha Lafayette, Telsat, tutti apparecchi così, c'ha tutti da base. È roba che magari funziona ancora bene, le radio che saranno state revisionate bene, oppure c'è la passione che ha tenuto bene, e lui sicuramente ha una buona antenna direttiva, capito, che ha il rotore d'antenna, la giri come vuoi, e diciamo in SSB via di lontano, così metti qualche faccia, una giunta, e appure ti fa il collegamento. Poi caro, ci sono anche, come si chiama, le piattaforme dove si trovano tutti i CD, fanno vedere gli apparecchi, c'è quello che vende, l'altro che fa vedere apparecchi di vecchia era, insomma sembra che stia rinascendo, che ci sia gente che voglia far rinascere la frequenza, capito? Così ogni tanto anche io sento qualcosa, però poi, capito, città. Adesso ho saputo addirittura che hanno fatto gli esami per la patente di radioamatore su 30, cosa che l'hanno passato in 28. Capito? C'è stata una controtendenza, prima non potevano passare nessuno, adesso mi hanno fatto passare 28 radioamatori. Ma che di sassa c'è gente? Penso anche gente di sassa, capito? Perché adesso fanno solo delle domandine, capito? Non è più come prima, prima era difficile. C'era CW, c'erano diverse cose, un sacco di domande. Adesso quattro domandine di niche. Lo so, perché comunque in effetti la patente di coso di radioamatore la devi dare alle persone che sono radioamatori e non è che devono essere ingegneri, elettromeccanici, elettrotecnici, capito, e sapere che ne so cosa si studiava, la legge di Ohm, circuiti, stampati, quelle sono cose assurde. Anche perché ormai le radio sono tutte miniaturizzate, perlomeno io parlo per le radio nuove, capito? E andare a toccare, insomma, gli esercizi che fanno solo per l'autocostruzione di antenne, nuovi campi, capito, rotori, queste cose qua. Però le radio chi le compra, si compra una bella radio, che ne so, anche a F, la ESU, mica la puoi mettere, mica ad aprirla per vedere cosa c'è, quelle sono talmente costose, una volta che ce l'hai la fatti bene, ti accendi solamente modo, colleghi l'antenna che non basta. Quindi la patente di radioamatore secondo me la dovrebbero, cioè i materiali dovrebbero cambiare, perché se c'è qualcuno che magari ha intenzione di farsi su una stazione, così se riesce a prendere la patente se la fanno un pochino più agevole, loro dovrebbero fare sulla legislazione, anch'io devo rispettare la frequenza, devi sapere con quanto si va a trasmettere quella frequenza, quando ci sono emergenze devi lasciare vivere certe frequenze che anche se erano dedicate a mattoni, devi sapere tutte queste cose qua. La legislazione va modificata, però generale, sulla propagazione delle onde elettromagnetiche, quelle cose lì vanno bene, però l'elettronica la rendeva molto difficile, sapete già. I vecchi radioamatori, Carlo, costruivano da soli alimentatori, addirittura ce n'è uno che fa, se vedi c'è un carabiniere che è radioamatore, che fa certi lineari, va belli, da 1000 watt, da 1200 watt, autocostruiti, ma sono dei cannoni, c'è gente che l'ha comprati, che è anche qua a Sassari, quindi io li ho visti, sono apparecchiature bellissime, ma proprio belle da vedere, con strumentazione e con tutto. Sono cani, dai, c'è gente che è appassionata e che gli piace. I vecchi radioamatori costruivano molto, costruivano gli alimentatori, io ne ho seguito diversi quando facevo ascolto, adesso non ne sto più facendo, ma prima facevo ascolto su banda radioamatoriali, praticamente li sentivo che stavano preparando questo alimentatore che mi servirà per questo apparecchio, capito? Facevano tutto loro. Sì, lo so. Alimentatori, sì, oppure lineari di potenza con 2000-2500 watt, perché ovviamente ci sono anche delle frequenze dove puoi usare un sacco di watt, da noi c'è il limite dei 5, capito? Ma loro hanno, non so se hanno 50 che programmi che possono usare e anche di più, penso in HM che può usare anche di qua, forse anche per arrivare a 1000, credo. No, 500 se ne possono usare, a quanto su io. Poi c'è chi ne usa 1000, 1500, come 27, che può usare 5 watt e poi c'è gente che ne usa di più, però praticamente mi sa che solo sino a 500 che ne possono usare. Eh sì, adesso io non ricordo, tempo fa avevo visto, avevo letto qualcosa, ma non mi ricordo come si sia, ho tirato un po' così a rovinare adesso. Un periodo mi stavo pensando anche io, ma adesso a malapena ho un attimino sulla ringhiera, non ho le condizioni per mettere qua le stazioni, eccetera, per tenere il patente. Mi basta la radio così, la 27 e basta, tutta più in banda laterale, ogni tanto qualche chiamata, prima la facevo quando avevo la antenna nell'altra casa, e lì ho fatto diversi X, anch'io ne ho fatto diversi di collegamenti anche lontano, quando c'era la comparazione, però adesso sì che rimango così, lascio tutto così come quando mi sento la possibilità di mettere spero l'antenna sul tempo, allora potrò fare qualcosina in più, capito? Ma soprattutto cercherò di mettere un'antenna buona, la clavetta l'ho pronta, così se dovessi avere l'occasione di metterla, capito? La devo solo fissare e basta, di andare bene, collegare il campo, così si è fatta. Spero che questo giorno possa fare il nodo, entro qualche mese, spero, però tu considera che stiamo andando anche incontro all'inverno, quindi è anche più antipatico passare dai privati, finché è stato da te, se no mi ero tutto qui a primavera o all'estate e così vedo un po' se non riuscire a mettere una tendina sul testo. Tu mi state cercando, ti fa male la testa. Ah, se trovi qualche giornata bella a farlo, io l'ho fatta anche d'inverno. Io l'antenna che c'ho l'ho collegata a questa che c'ho adesso, il giorno di Santa Lucia, la festa dei calzolai. Il 13 dicembre, quindi. Esatto. Sì, lo so. Santa Lucia di Vicenza, quindi me lo ricordo, c'era la canzone, adesso non mi ricordo di chi era, 13 dicembre, Santa Lucia, forse è Nicola Spagna, non so. Sì, me la ricordo, 13 dicembre, Santa Lucia. Esatto, forse era Nicola Spagna, se non ricordo male. Non me lo ricordo chi era, però già mi ricordo la canzone, vabbè, degli anni di mia nonna. E sarà degli anni, fine anni 60, 70, inizio anni 70, una di canzone, cioè, già vedi che la conosco. Ah, infatti, ma, vabbè caro, io vado a mangiare, dai, ci sentiamo, mi ha fatto piacere la chiacchierata, a non sbidere. Va benissimo Gianni, anche a te, grazie delle tue SEO e ci sentiamo adesso. Buona serata, buona cena, che io vado a cenare, ce l'ho già pronta oggi per quello che mi sono un po' trattenuto a quest'ora. E faccio un filmetto, qualche documentario dopo. Buona serata Gianni, alle prossime. Altrettanto, ciao ciao. Ciao ciao.